Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo parlato di veicolo intelligente in relazione alla sicurezza stradale qualche puntata fa con il DIS, il centro di sicurezza stradale che si occupa di coordinare il lavoro dei vari centri di competenza che sono presenti in Italia su questa tematica, la sicurezza stradale appunto. Ma oltre che nel veicolo, l'intelligenza può risiedere fuori dal veicolo. Se per essere intelligente un veicolo deve essere in grado di percepire l'ambiente che gli sta intorno, per avere una viabilità intelligente è necessario che i veicoli parlino tra di loro o direttamente o attraverso un qualche tipo di infrastruttura viaria. Di questo si occupa Gianluigi Ferrari, anche lui consigliere del DIS e docente di telecomunicazioni all'Università di Parma. Buonasera Ferrari. Buonasera. Dunque Ferrari, c'è molta attività a livello mondiale per una standardizzazione sulle comunicazioni tra i veicoli. Ecco, io vorrei che lei ci aiutasse a capire, tanto per cominciare, che cosa ci aspettiamo dall'apertura di questo scenario. Quindi che cosa hanno da raccontarsi i veicoli, che tipo di informazioni quindi potrebbero circolare e a che pro? Dunque, avendo i veicoli una possibilità di scambiarsi informazioni, quello che è possibile fare è puntare a una viabilità intelligente, dove non è più il singolo veicolo che da solo in qualche modo percepisce l'ambiente solo circostante a lui e prende delle decisioni autonome, ma è la moltitudine dei veicoli che, scambiandosi informazioni, riescono a migliorare la viabilità a livello globale. Quindi immaginiamo a livello cittadino, non si vuole più ottimizzare la viabilità soltanto in uno specifico punto o aiutare un singolo veicolo, si vuole che la viabilità migliori globalmente. Quindi praticamente che i veicoli si coordinino tra di loro in modo tale da far sì che la viabilità diventi più fluida. Esattamente questo, la fluidità della viabilità in qualche modo. Allora, il tipo di informazione che i veicoli si possono scambiare può essere di varie tipologie. Veicoli vicini si possono scambiare informazioni di sicurezza in maniera ultra rapida, quindi comunicare ai propri vicini che magari 200 metri più avanti c'è un incidente per fare in modo che frenino in maniera efficace. Ma se si pensa che i veicoli in qualche modo possono comunicare anche a livello urbano, allora è possibile pensare anche ad altri tipi di informazione, tipo a prevenzione di congestioni, cioè non si vuole più aspettare che ci sia un ingorgo stradale per segnalarlo, si vuole prevenire la formazione, certo, di un ingorgo. E quindi il tipo di informazione può essere di varia natura, per esempio informazioni sullo stato di velocità del veicolo, informazioni su, per esempio, cantieri in corso. Ecco, si possono poi immaginare tante modalità per far circolare l'informazione tra i veicoli. Sì. Per esempio abbiamo già detto, lei ha già detto, che i veicoli possono proprio comunicare direttamente fra di loro, ma in realtà non è l'unica possibilità questa. No. Infatti diciamo che a livello mondiale anche qui c'è molta attività a livello di standardizzazione, sia in ambito statunitense che in ambito europeo, e si stanno sviluppando dei nuovi standard, ormai sono in fase anche di produzione dei primi prototipi, di dispositivi radio, di radiocomunicazione dedicati proprio a far parlare veicoli vicini. Sì. Ovviamente possono parlare sia veicoli in prossimità, ma può anche parlare un veicolo verso un'infrastruttura, pensiamo a un semaforo intelligente. E viceversa, l'infrastruttura può comunicare delle informazioni ai veicoli. Quindi questi apparati sono in fase di studio, ci sono primi prototipi e già negli Stati Uniti si prevede, credo entro il 2014, che diventi in qualche modo obbligatorio che i veicoli si attrezzino con questi sistemi di comunicazione. Ecco, tanto per fare un po' di scenario, anche per colorire questa nostra chiacchierata, possiamo immaginare per esempio un veicolo che comunica a quello che lo segue le condizioni della superficie stradale, per esempio se c'è una pozzanghera, no? Oltre all'incidente. Sì. Oppure possiamo immaginare quegli scenari in cui si eliminano invece i semafori e i veicoli, comunicando tra di loro e coordinandosi, attraversano l'incrocio, incrociandosi fra loro senza però mai collidere. Queste sono, diciamo, due possibilità che si ha. Ecco, il problema è che comunque dotare le automobili di sistemi ricetrasmittenti poi collegati in qualche modo alla meccanica del veicolo, oppure dotare l'infrastruttura di tutta una sensoristica, insomma non è una cosa banale. Allora oggi ci si sta orientando su qualcosa che invece abbiamo già tutti un po' nelle tasche, lo smartphone. Che cosa si può fare con lo smartphone? Si può immaginare che sia lo smartphone a bordo di un veicolo a mandare informazione a uno smartphone a bordo di un altro veicolo. E siccome gli smartphone ormai hanno diffusione capillare, direi praticamente tutti hanno uno smartphone, allora diventa piuttosto naturale come primo approccio, a basso costo perché c'è già, utilizzare lo smartphone per scambiarsi informazioni sullo stato proprio della viabilità. E anche qui lo smartphone apre varie possibilità. La prima è quella di far parlare direttamente smartphone vicini, quindi a bordo di veicoli adiacenti, ma ogni smartphone, soprattutto in ambito urbano, è tipicamente a disposizione un collegamento con internet tramite la rete cellulare, il 3G, quello che diventerà poi il 4G. E quindi questo apre nuovi scenari, perché non è più necessario parlare a un proprio vicino, ma io col mio smartphone posso raccogliere informazioni da internet e anche se non le ricevo da qualcuno che è fisicamente vicino a me, posso ricevere informazioni legate alla mia zona, alla zona della città per esempio in cui mi trovo. Ecco, diventa molto efficiente. Diventa molto efficiente come sistema. Naturalmente, diciamo che c'è un numero limitato di cose che si possono fare, perché appunto poi il cellulare non è che guida la macchina. Sì, ce l'abbiamo tutto in tasca, ma non ha i piedi e le mani, naturalmente. Certo, ci sono anche tante altre problematiche che nascono nel momento in cui si iniziano a sviluppare sistemi di questo tipo. Per esempio, se io anche mando un'informazione al mio smartphone che mi dice che fra 200 metri c'è un incidente, il mio smartphone non può squillare fortissimo o emettere un suono o dire attenzione che c'è un incidente, perché un meccanismo di quel tipo lì rischia di farmi prendere paura. Sì, rischia di creare un incidente, lei dice, sì. Emette un urlo straziante. Sono tanti aspetti, c'è l'aspetto di che tipo di informazione si può scambiare e una volta che si ha l'informazione, come l'informazione viene data al conducente in maniera sicura. Okay. Non solo, poi com'è che il conducente la vuole utilizzare? Se però per qualche motivo l'informazione che ha ricevuto è sbagliata o la gestisce in maniera sbagliata e genera degli incidenti, ma neanche per lui, per quelli che lo seguono, di chi è la responsabilità? E questo è un tema che abbiamo già incontrato parlando proprio dei veicoli intelligenti. Mi sembra un ottimo modo di chiudere. Grazie Gianluigi Ferrari. Grazie a lei. È tutto, a domani.